140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music Milano. È il rapper napoletano più famoso, Clementino, che esce con un nuovo album che si intitola Miracolo. Ma guarda, io cercavo un titolo che potesse rappresentare la tradizione napoletana e Miracolo mi sembrava quello adatto, anche perché il vecchio album si chiamava Mea Culpa, quindi dopo Mea Culpa il Miracolo se lo chiamava, e anche perché è un miracolo arrivare a fine mese con lo stipendio, quindi potrebbe essere una delle ragioni per cui ho scelto questo titolo. E niente, mi piaceva anche Miracolo per il film di Troisi, Ricomincio da tre, dove c'è la scena del miracolo, e quindi lì c'è questo legame verso Napoli, e poi perché si è sdoganato l'hip hop finalmente in Italia, dovunque, nelle radio, in TV, e quindi questo vero e proprio miracolo musicale. Questo album è pieno di amici, questo doppio album è pieno di amici, quelli che ti porti dietro, hai detto i tuoi amici di Napoli che ti porti dietro come una squadra, amici anche di altre città e di altre estrazioni con i quali hai incrociato il cammino. Sì, ho sempre pensato questa cosa, diamoci una mano a vicenda, insomma, quindi i rapper bravi della mia città li ho portati dai vecchi album sempre con me, anche sul palco, e poi ci sono i rapper forti a livello nazionale come Fabri Fibra, come Marracash, come Salmo, che ho condiviso le note di una base musicale insieme, perché è sempre bello poi anche per un fan vedere degli assi tutti insieme. Repare. Onestà intellettuale e sensibilità, questo lo dico io, perché quando è scomparso Pino Daniele hai deciso di tenere nel cassetto per il momento il brano che hai fatto con lui. Sì. Magari un altro l'avrebbe pubblicato subito. Sì, no, ho preferito pubblicare un pezzo mio dedicato a Pino Daniele, però il pezzo insieme comunque l'abbiamo conservato per l'album, e niente, può darsi che un giorno riusciremo a tirare fuori un video o qualcosa. Però bello che quelli del Neapolitan Power, quelli di Napoli Centrale, abbiano riconosciuto l'hip hop di oggi e sì, te in particolare, come alfiere del New Neapolitan Power. Sì, l'hip hop napoletano come nuovo Neapolitan Power sono state parole loro, noi siamo solo onorati di questa cosa, ecco, cercheremo di fare sempre il nostro meglio. Stop. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare. Kalimba de luna, un suono tra la sabbia se ne va. Kalimba de luna, siendo arriva los. Kalimba de luna, quando l'onda ci travolgerà. Kalimba de luna, siendo arriva los. Te la passo, mi guardi, due tiri e già riparti. Mi lasci solo in questo party. Vuoi toccare il cielo? Non serve un aereo. E adesso sale un fumo denso da. C'è una cosa molto carina che hai detto. Io sono proprio Pulcinella, perché sei un vulcano a parlarti. Sì. Però evidentemente grattando sotto la superficie c'è dell'altro. Sì, io da solo sono depresso, io sono paranoico, insicuro, sono veramente molto triste, ma non perché vivo di tristezza, anzi sono contento di come mi sta andando la vita, insomma, non mi dovrei né lamentare, però sono proprio fatto così, io magari al di fuori sono, anche Totò era così, anche Edoardo e Filippo era così, quindi... se dei geni come loro hanno avuto la possibilità di essere tristi da soli e poi donare il sorriso alle persone, ho detto vabbè, se lo fanno loro e sto così grande, allora io non mi devo dare una colpa. Ho saputo che tu vivi in un luogo molto particolare, che cosa mi dici di quel luogo in cui vivi? Ma guardi, io sono radioattivo al 100% perché abito al centro della Terra dei Fuochi, mi sono spostato da lì per venire qui a Milano, dove comunque riesco a far sentire la mia musica. A Milano sappiamo che è il centro di tutto, quindi venendo qui riesco a far sentire la mia musica in tutta Italia. La Terra dei Fuochi è una tragedia, un dramma più grande di quanto noi possiamo pensare. Dovremmo rimboccarci tutti le maniche, partendo dai politici, partendo dai grandi, fino al contadino, come ci vuole, per dare una mano. Quindi da soli non si fa niente, insieme possiamo costruire qualcosa. Di Terra dei Fuochi, tra l'altro, ha parlato quello che tu dici, il tuo fratellino Rocco Hunt, quando è stato a Sanremo e ha vinto Sanremo. Per te invece Sanremo è stata un'incompiuta. Volevo sapere, qualche mese dopo, che sentimento hai maturato e se il brano che hai portato a Sanremo è nell'album. Sì, perché Rocco Hunt viene da Salerno, dove c'è il mare, e ha parlato della Terra dei Fuochi. Io vengo dalla Terra dei Fuochi e ho parlato del mare in Calimba de Luna, quindi ci siamo un attimo invertiti i temi, ecco. E no, Rocco Ante è un ragazzo pieno di talento, c'ha 19-20 anni, quindi secondo me può fare veramente tantissima strada. E questa storia di Sanremo l'hai superata? Ma sì, io guardo, volendo a Sanremo, ma per il semplice fatto che è un'esperienza, io vorrei fare tutte le esperienze. Allora, come l'anno scorso mi mancava il 1° maggio il concerto a Roma e ci sono andato, così volevo l'esperienza sanremese per un fatto mio personale. Poi non sono stato preso, è chiaro che il primo giorno, quando non vieni preso, ti prendi male, quindi su internet, oddio, hanno preso questi, non platinetti, i soliti idioti, non hanno preso me, però poi dopo 2 giorni ti passa. Vediamo per l'anno prossimo. Ma quindi il brano l'hai messo nell'album o te lo sei tenuto nel posto? No, il brano era Luna, quello di Calimba de Luna. Ah no, qualcosa per l'anno prossimo è già in costruzione. Vediamo, dai, lì non è compito mio, insomma, io scrivo, poi se ci prendono, ci prendono. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Clementino. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.